il Signore disse a Mosè: «Ordina ai figli di Israele che prendano per me un prelievo. Da ogni uomo che sarà spinto dal proprio cuore, prenderete un prelievo per me. Questo è il prelievo che prenderete da loro: oro, argento e bronzo, porpora viola e porpora rossa, scarlatto, visso e tessuto di peli di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli conciate e legni d'acacia, olio per illuminazione, balsami per l'olio d'unzione e per l'incenso aromatico, pietre d'onice e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale. Mi faranno un santuario e abiterò in mezzo a loro». In base a tutto il progetto della dimora che io ti mostrerò e al progetto di tutti i suoi oggetti, così voi farete. Faranno un'arca di legno d'acacia, lunga 2 cubiti e mezzo, larga 1 cubito e mezzo e alta 1 cubito e mezzo. La ricoprirai d'oro puro, la ricoprirai dentro e fuori. Farai sopra di essa un bordo d'oro d'intorno. Fonderai per essa 4 anelli d'oro e li porrai ai suoi 4 piedi, 2 anelli su un lato e 2 anelli sul suo secondo lato. Farai delle stanghe di legno d'acacia e le ricoprirai d'oro. Introdurrai le stanghe negli anelli ai lati dell'arca per trasportare l'arca. Le stanghe saranno negli anelli dell'arca, non vi saranno tolte. Porrai nell'arca la testimonianza che io ti darò. Farai un propiziatorio d'oro puro, lungo 2 cubiti e mezzo e largo 1 cubito e mezzo. Poi farai 2 cherubini d'oro massiccio. Li farai alle 2 estremità del propiziatorio. Farai un cherubino da una parte e l'altro cherubino dall'altra parte del propiziatorio. Farete i cherubini sulle sue 2 estremità. I cherubini stenderanno le ali verso l'alto, proteggendo con le loro ali il propiziatorio. Saranno rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini saranno verso il propiziatorio. Porrai il propiziatorio sopra l'arca e nell'arca porrai la testimonianza che ti darò. È là che ti incontrerò, e da sopra il propiziatorio, tra i 2 cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti dirò tutto quello che ti ordino riguardo ai figli d'Israele. Farai una tavola in legno d'acacia lunga 2 cubiti, larga 1 cubito, alta 1 cubito e mezzo. La ricoprirai d'oro puro e le farai intorno un bordo d'oro. Le farai intorno dei traversini di 1 palmo e farai un bordo d'oro intorno ai suoi traversini. Le farai 4 anelli d'oro e porrai gli anelli ai 4 angoli che sono ai suoi 4 piedi. Accanto ai traversini saranno gli anelli per contenere le stanghe per sollevare la tavola. Farai le stanghe in legno d'acacia e le ricoprirai d'oro. Con quelle si solleverà la tavola. Farai i suoi piatti, le sue coppe, le sue anfore e le sue tazze con le quali si fanno le libazioni. Li farai d'oro puro. Porrai sulla tavola pane di presentazione davanti a me in continuazione. Farai un candelabro d'oro puro. Farai d'oro massiccio il candelabro con il suo tronco e i suoi rami. Avrà i suoi calici, le sue corolle e i suoi fiori. 6 rami usciranno dai suoi lati. 3 rami del candelabro da 1 lato e 3 rami del candelabro dal 2° lato. 3 calici in forma di mandorlo sul ramo con corolla e fiore, e 3 calici in forma di mandorlo sull'altro ramo con corolla e fiore. Così per i 6 rami che escono dal candelabro. Il candelabro avrà nel tronco 4 calici in forma di mandorlo, con le sue corolle e i suoi fiori. Una corolla sotto i primi 2 rami uscenti da esso, una corolla sotto gli altri 2 rami uscenti da esso, e una corolla sotto gli ultimi 2 rami uscenti da esso. Così per i 6 rami che escono dal candelabro. Le sue corolle e i suoi rami formeranno un tutt'uno massiccio d'oro puro. Farai le sue 7 lampade. Si porranno sopra di esso in modo da illuminare lo spazio davanti ad esso. I suoi smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d'oro puro. Si farà con un talento d'oro puro con tutti quegli oggetti. Guarda e fa secondo il loro progetto che tu hai osservato sul monte.